Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Esistono muri che diventano simboli di una storia collettiva. A Berlino i brandelli di ciò che separava la parte est dalla ovest sono tappezzati di murales che vengono restaurati e trattati con estrema cura, come deve essere quando si parla di opere d'arte. Su, mettiti comodo come in un condor che scorrono momenti lenti più del Vic 20 Commodore. Sulla tela la tua vita intera con un provoco. Ma non ci sono solo i muri passati alla grande storia, ci sono anche quelli di periferia, scrostati, grigi, dove si consumano tante storie collettive e individuali. Muri di fabbriche un tempo abitate da giovani che dal sud arrivavano al nord, muri che diventano uno strumento per appropriarsi del proprio quartiere, per abbattere la bruttezza, per raccontarsi agli altri. Di questo parliamo oggi, di un progetto sociale nato nel cuore del quartiere Ortica, periferia milanese. Da qualche anno rinata, quasi riqualificata con l'arrivo di artisti e designer che lo scelgono per viverci. Insomma, un progetto, quello dei muri, che ha creato un circolo virtuoso, aperto il quartiere ad altri abitanti e permesso di crescere anche i residenti storici. Il quartiere, infatti, è stato riqualificato dalle opere murarie ed è diventato più vivibile, migliore, come centro di una sua stessa storia. Il progetto nasce grazie all'associazione Orme, Ortica Memoria e Ortica Noodles, come ci spiega Alice Cosmai, che fa parte dell'associazione. Il progetto Orme nasce dall'intento di un gruppo di abitanti del quartiere di trasformare il quartiere Ortica di Milano in un borgo dotato di un'identità forte e con una vocazione artistica. Questo è successo perché alcuni abitanti del quartiere, anche un po' anziani, diciamo, quelli che noi chiamiamo gli Ortigat, quindi gli abitanti storici dell'Ortica, si sono accorti nel 2015 che in Ortica abitava uno street artist, che è il gruppo di Ortica Noodles. Quindi è nata una primissima progettualità, ancora prima che nascesse Orme, quando questi abitanti del quartiere, che da anni gestiscono il circolo dell'Ortica, hanno chiesto a Ortica Noodles di dipingere insieme alla scuola il ponte che congiunge Ortica al Viale Argonne e al percepito dell'interno della città di Milano. Nel 2016 questa cosa, che era funzionata, ha continuato ad andare avanti e il gruppo degli abitanti del quartiere ha creato un'associazione con lo scopo di costruire nel tempo, quindi si sono dati una certa lunghezza d'onda, hanno ipotizzato di ragionare sul quinquennio, e quindi a partire dal 2016 questo gruppo degli Ortigat ha costituito l'associazione Orme, Ortica Memoria, con l'intento di costruire un vero e proprio itinerario che ricongiungesse attraverso dei murales grandi, riconoscibili e firmati da Ortica Noodles tutti i punti cardine del quartiere Ortica. In questi ormai 4 anni abbiamo realizzato 14 murales, l'intento sarebbe quello di arrivare a 20. I murales che abbiamo dipinto fino adesso hanno tre direttrici di fondo che raccontano questa storia del Novecento attraverso i muri. Alcuni murales hanno un contenuto storico e quindi vanno a ripercorrere dei tratti, dei momenti salienti della storia del Novecento. Quindi per esempio Human sulle orme dei migranti, che è sul ponte di via San Faustino, il murale degli antifascisti e dei deportati che è in via Tucidide, il murale per esempio dedicato al partigiano e al vescovo. Dei posti prima, diciamo, anonimi, come potevano essere dei cavalcavia, dei ponti, hanno iniziato per i residenti ma anche per persone che non fanno parte di questo quartiere e vivono a Milano a caratterizzarsi a seconda del soggetto dei murales che noi abbiamo dipinto sui muri. Qui siamo lungo via Corelli. Da qui passano i migranti che finiscono nel centro per il rimpatrio. Correndo lungo questa via scorre davanti ai nostri occhi il gigantesco muro realizzato dagli Ortica Noodles. Wally, fondatore del gruppo, ci racconta il perché di quest'opera. Io sono Wally, del collettivo Ortica Noodles. Insieme all'associazionismo di quartiere abbiamo creato Orme, che significa Ortica Memoria, ed è un progetto di arte muraria, ossia di arte pubblica, all'interno del quartiere. Nello specifico su questo muro abbiamo lavorato come Ortica Noodles in una decina di persone e l'abbiamo realizzato in 2 settimane con una tecnica tradizionale che si chiama spolvero, ed è la stessa tecnica con cui in questi giorni ad esempio si è scoperto che anche Leonardo ha dipinto la Gioconda, oppure tutti gli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo. Per cui fa piacere utilizzare un linguaggio ultracontemporaneo utilizzando una tecnica in realtà tradizionale che fa parte del nostro patrimonio culturale. Questo, diciamo, questo stridere, cioè questo contrasto, fa sì che si possa anche raccontare una storia proprio contemporanea come quella del rap, e mettendola assieme appunto con delle cose più tradizionali. Viene fatta una progettazione in scala dell'intero disegno. Dopodiché viene tutto riprodotto su carta e i contorni vengono forati, e i contorni poi riportano sul muro il disegno fondamentalmente. Ogni metro fa una scala colore particolare, utilizziamo questo linguaggio di scomposizione dell'immagine che è un po' la nostra firma. Questo muro non ha firme proprio perché la firma è intrinseca nella chiave stilistica. Praticamente la cosa divertente è che in loco si può decidere di lavorare sulle giustapposizioni dell'opera, nel senso che ogni metopa dialoga con quella che ha a fianco, i colori vengono decisi lavorandoci, perché non può essere progettata a tavolino le centinaia di colori che ci sono, ma vengono scelti e creati sul posto in base anche a quelle che sono le energie e le contestuali proprio al momento della realizzazione. Qua siamo in via Corelli, che è una via, come si sente, di alto scorrimento, e questo muro quanto spazio occupa? Questo muro occupa circa 300 metri quadrati e ha una lunghezza di 100 metri e rappresenta un terzo in realtà di questa intera superficie, che appunto è di 300 metri. E noi stiamo cercando di capire come poterlo proseguire, nel senso che qua è raccontata la storia del rap con un focus su Milano, perché i personaggi che sono qua a Milano hanno operato o a Milano sono nati, e raccontano un po' uno spaccato del rap, che è il rap dal 2000 al 2010-2015, per cui proprio un po' una forchetta temporale di una cultura, e per cui sarebbe bello poi poterlo continuare, poter andare avanti, raccontare, non so, andando indietro, andando avanti nel tempo, come questa storia è un po' in divenire. Il fatto che non sia completamente finito è interessante anche per questo, perché una parte è terminata e adesso si può andare avanti. In quanti avete lavorato a questo progetto? Allora, Orme è un progetto partecipato con tutto il quartiere, per cui le ideazioni, tutta la parte che riguarda la sicurezza, la permessistica, eccetera, viene gestita da più persone. Poi fisicamente in cantiere a dipingerlo l'abbiamo realizzato in 2 settimane, le ultime 2 settimane di luglio, in una decina di persone. L'impatto non è solo visivo, è anche sulla qualità dello stare, del vivere il proprio quartiere. Io sono Alessandro e faccio parte del collettivo Ortica Noodles, e insieme agli altri ragazzi ho partecipato alla progettazione e alla realizzazione di questo muro. Il mio percorso all'interno del mondo del muralismo è nato a caso, nel senso che al termine dei miei studi liceali ho conosciuto Walter in merito al primo progetto in quartiere di Orme, che era appunto il Cavalcavia Buccari, in ricordo del 70° anniversario della Resistenza. E io insieme ad altri ragazzi siamo stati coinvolti nella realizzazione del progetto come volontari. E io ero già appassionato di muralismo, di street art più in generale. Ormai sono 5 anni che faccio questo lavoro e non penso di poter fare altro nella vita. Nel senso che quando ti approcci a un tipo di arte come questa è impossibile pensare di fare altro, soprattutto per la componente sociale che ha. Nel senso che la mia missione personale più grande ogni volta che dipingiamo, soprattutto in situazioni urbane di questo tipo, quindi con muri bassi, accessibili a tutti, è quello di coinvolgere sempre il più possibile le persone. Capita spesso che ci siano persone che si fermano, fanno complimenti, chiedono dell'opera, vogliono sapere. E il mio invito è sempre quello di provare, cioè di invitare le persone a mettersi e a provare a dipingere. È capitato anche nel corso di questo muro, qui si sono fermate ragazze che stavano facendo da babysitter a dei bambini che, ah cavoli colori, ah che bello, e alla proposta di appunto mettersi e provare a dipingere, un po' di titubanza iniziale, poi quando appunto si è fatto vedere che in realtà era accessibile a tutti, che era una tecnica facile, dove in realtà non puoi sbagliare perché puoi sempre correggere, puoi sempre andare col colore sopra la campitura sbagliata e per portare il lavoro poi a finito, vedere la soddisfazione magari anche di un bambino di 5 anni che con rullino ha riempito un'area di blu è incredibile. Poi magari si ferma invece la signora che sta facendo il corso di arte, dice ah cavolo che bello, mi potete raccontare la tecnica, si ferma un attimo a parlare, gli fai provare a dare due pennellate e entusiasta, magari torna anche il giorno dopo tutta vestita apposta da pitto come diciamo noi, per immergersi completamente all'interno di questa esperienza. E quindi secondo me appunto la cosa più importante e più bella di questo lavoro è che è coinvolgente. Una volta che si sono spiegate le basi, è realmente accessibile a tutti, sia nella comprensione, quindi ognuno riesce a leggerlo, a interpretarlo e a dare un giudizio, che sia positivo che sia negativo, però non è arte astratta, quindi non c'è bisogno di un livello elevato di conoscenza del mondo dell'arte per poterlo capire, e allo stesso tempo anche nella realizzazione ognuno può metterci il suo, quindi dal bambino alla signora che magari ripasseranno qua un giorno e potranno dire cavolo, questo l'ho fatto anch'io, è anche un po' mio. E in generale questo accomuna un po' tutti i lavori che facciamo in Ortica, laddove si può far dipingere noi facciamo dipingere, anche perché a quel punto nasce un senso di appartenenza maggiore al quartiere, nasce un senso di appartenenza nei confronti dell'opera, quindi anche di cura. Quando vengono imbrattati, capita a volte che vengono imbrattati, raramente però purtroppo succede, sono in primis le persone del quartiere che magari hanno partecipato proprio alla realizzazione di quel muro che ci chiamano e ci dicono guardate che è stato imbrattato, cioè, veniamo in studio, prendiamo i colori e lo correggiamo noi. È capitato in più di un'occasione, non solo all'Ortica ma in generale in altri interventi che abbiamo fatto a Milano. Ed è un po', cioè, non solo essere parte diciamo del progetto e quindi sentirsi anche parte del quartiere, ma è partecipare a un'opera di bellezza, che anche quello ha il valore in più, no? Sì, partecipare a un'opera di bellezza, partecipare a un'opera culturale, come diceva forse già Wally prima, ORME è appunto l'acronimo per Ortica Memoria, quindi si pone l'obiettivo di raccontare la storia del Novecento, tutto il Novecento, questo in questo caso è la fine del Novecento, ma comunque è un pezzo di storia del Novecento. Alle persone del quartiere e alle persone in generale che il quartiere magari lo vivono perché ci passano per andare a fare la spesa all'Esselunga, per andare a prendere la tangenziale. Fornire i mezzi agli abitanti del quartiere per poter anche spiegare il valore reale dell'opera che è nel loro quartiere è importante, perché a quel punto chiunque che abita il quartiere può fare un po' da mentore per quel murale. Se c'è la coppia di turisti che si ferma sotto il muro e si sta chiedendo che cos'è, magari c'è la vecchietta che passa e visto che ha partecipato a tutte le fasi di realizzazione del progetto è in grado di spiegarmelo, mettendoci anche sicuramente del suo, quindi questo arricchisce, perché la visione dei muri appunto è per ognuno differente secondo me, cioè essendo pubblici ognuno può interpretarli un po' come vuole, può dargli la lettura che meglio preferisce. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Mi voto e m'arrivoto, mastugliette m'arrovendo. Ripenso a quel che ho fatto e non so se sia brutto o bello, ma poco importa. Quel che è stato ed è già da un po' che ha aperto questa porta. Vado avanti e rifletto sul da farsi, magari sarà meglio. Può darsi, sto attento ai passi falsi come un muratore in bilico in cima ad un'impalcatura. In rima edifico su un beat malefico che fa paura e affascina. Siamo nel quartiere Ortica, periferia di Milano. Qui, grazie al lavoro di alcuni abitanti e di un gruppo di street artist, è nato un vero e proprio movimento, un movimento culturale che ha permesso a tutti gli abitanti di fare un balzo avanti, di appropriarsi degli spazi, di poter parlare con orgoglio del proprio quartiere, di poter addirittura ospitare turisti, stranieri, ma anche milanesi, in visita. e poter raccontare, a modo loro, questa parte di una città che altrimenti sarebbe rimasta esclusa. Il progetto nasce grazie all'associazione Orme, Ortica Memoria e Ortica Noodles, come ci spiega Alice Cosmai, che fa parte dell'associazione. È come se i luoghi toccati dal muralismo e che diventano dei luoghi artistici poi abbiano un nuovo nome, è qualcosa di non atteso e molto interessante che sta accadendo in Ortica. L'altra cosa interessante che sta succedendo è che dal 2019, quando quindi avevamo già dipinto una decina di interventi, è iniziato un vero e proprio circuito turistico sull'Ortica, per cui l'associazione Orme ha iniziato a essere sollecitata da parte di tour operator cittadini che hanno il desiderio di accompagnare visitatori interessati a visitare il circuito murale dell'Ortica per capire meglio questo quartiere e il progetto di arte contemporanea che lo caratterizza. Questo circuito di turismo è ovviamente interessante perché da un lato porta persone di tutte le generazioni a interessarsi all'arte urbana e a scendere in strada e andare a visitare dei quartieri, diciamo periferici, come il quartiere di Ortica. L'opera d'arte diventa quindi quasi una terapia collettiva che permette di essere parte del luogo in cui si vive. Considerata fino a poco tempo fa una forma di vandalismo da reprimere e punire, la street art è riconosciuta ora come uno strumento di riqualificazione urbana su cui investire per impreziosire le città. Che cosa è cambiato nella percezione di queste opere? Lo abbiamo chiesto a Wally. È stato il cambio di direzione delle istituzioni, fondamentalmente, nel senso che la cultura della street art e dei graffiti chiaramente è sempre stata corre sempre in parallelo a quella del vandalismo e quindi diciamo al deprezzamento di valore delle proprietà immobiliari, e quindi le istituzioni fin dall'inizio, fin dalla sua nascita negli anni 70, hanno sempre cercato di arginare con metodi punitivi anche gravi alcune volte. Oggi per esempio a Milano, oggi in Italia in generale, il reato di vandalismo può prendere anche l'aggravante di associazione a delinquere, che è una cosa molto grave che riguarda le associazioni mafiose, ma il fatto che le crew vengano considerate delle bande organizzate a delinquere, ecco, c'è anche questa aggravante. Nel corso degli anni le istituzioni hanno capito che alla base di questo grande movimento c'era comunque anche una volontà di una ricerca estetica, di una ricerca artistica fondamentalmente, e quando per prime le istituzioni circa 10-15 anni fa a Milano hanno deciso di concedere le possibilità di lavorare agli street artist, si è evoluto ed è nato in modo continuo a quello che sono stati i percorsi storici, il muralismo. Oggi questo fa parte di un capitolo ben preciso delle arti urbane, appunto, che è muralismo. Noi ci definiamo muralisti perché facciamo murales, che è chiaramente differente da chi fa writing e quindi fa scritte, o da chi fa street art che fa un altro tipo di comunicazione spesso legata ad altri concetti. La street art nasce negli anni 70 in America come denuncia, affermazione di un'identità, appropriazione, delimitazione di uno spazio urbano come supporto per veicolare un messaggio. In Italia si afferma tra gli anni 80 e 90. Oggi si lavora assieme a brand e istituzioni e i risultati, come ci racconta Wally, uno degli artisti che ha elaborato e realizzato il murale di Via Corelli, sono sotto gli occhi di tutti e sono veramente importanti. Noi in quanto artisti cerchiamo di sfruttare al meglio quelle che sono chiaramente le prerogative a nostro favore di questo periodo storico, ossia se le istituzioni in questo momento sono ok a poterci far operare, noi ci siamo professionalizzati, abbiamo iniziato a dialogare con i brand che potevano avere la possibilità economica di realizzare i murales, perché chiaramente come chiunque si occupa di edilizia sa che mettere in piedi un cantiere è un'operazione costosa di diverse migliaia di euro, per cui chiaramente il comune ha bisogno di pensare alle buche, ha bisogno di pensare ai lampioni. Bisogna trovare qualcuno che si occupi di sponsorizzare le opere. Spesso succede, come è successo anche in questo muro, che il brand è una sorta di mecenate, quindi che finanzia un'attività culturale. In questo caso parliamo di musica, che è prettamente cultura. Questo muro verrà inaugurato dall'assessore alla cultura del Corno sabato prossimo, e per cui ha precisamente questa ambientazione. Dopodiché i capocordata, chiaramente committenti, che sono IGP e MTV, sono delle SPA che hanno delle finalità commerciali, ma queste, ma gli interessi di portare una comunicazione su questo muro non è come fare pubblicità, fare il classico advertising in cui tu metti una chiamata a fare un'azione, a comprare un qualcosa. Questo rimane nella sfera prettamente emotiva. Quando l'osservatore ci si confronta sa che non avrà dei messaggi più o meno subliminali di consigli agli acquisti, di fare qualcosa, ma che in realtà è una cosa che serve solamente per migliorare le nostre quinte cittadine, per cui ha questa funzione di migliorare in fondo la qualità della vita senza dare nessun tipo di consiglio. In questo momento stiamo lavorando su un concetto di scomposizione e visione, fondamentalmente all'artista è chiesto quello, la capacità di avere una visione personale. Questo tipo di codice ci aiuta moltissimo a lavorare innanzitutto sui grandi formati, nel senso che tu hai dei tasselli di un puzzle e li vai a costruire in base alle tue metrature, avendo sempre sott'occhio una singola parte che poi viene moltiplicata per le parti che costruiscono l'intero. Dall'altra parte è diventata anche appunto una chiave estetica riconoscibile. Noi stiamo facendo lavori tutti in questo modo, questo rimanda molto anche al futurismo, all'effetto di movimento. Questo muro che abbiamo alle spalle ora, ad esempio, è fatto in modo per essere fruito in due modi: o passando in macchina e quindi vedere la scala musicale che le forme compongono, perché queste sembrano dei tasti di un pianoforte, e al tempo stesso è fruibile anche fermandosi come siamo noi, andarlo a vedere proprio da vicino, da un metro dal muro, vedere che è un astratto e quindi che è un disegno che regala un messaggio diverso, perché da vicino si può vedere il fatto che è fatto a mano, le precisioni belle dell'artigianato, si possono vedere i contrasti dei colori, togliendo quello che è il messaggio invece generale globale. È un po' una questione di visione delle cose, no? La vita, guardandola da lontanissimo, è un insieme semplice, poi ti avvicini, arrivi al giorno e le giornate sono complessissime, che se tu le pensi quanto è complesso un giorno, sarebbe impossibile pensare una complessità di un'intera vita di giornate così complesse. E questo, ecco, racconta questa metafora della vita. Opere che hanno anche costi molto alti di realizzazione e che spesso trovano nei privati uno sponsor, come è accaduto per quest'ultima realizzazione degli Ortica Noodles, come ci spiega Micaela Lodrini, vicepresidente marketing di Viacom CBS Italia. Insieme agli organizzatori abbiamo sostanzialmente condiviso un duplice obiettivo attorno a questo progetto. Da una parte il dare sostegno ai giovani, considerando proprio i giovani una risorsa fondamentale per il nostro futuro, e dall'altra parte l'obiettivo era quello di valorizzare il territorio in cui questi giovani ragazzi vivono, e per questo motivo abbiamo scelto MTV come proprio brand partner del progetto. MTV ha scelto di finanziare, tra tutti i bellissimi progetti che sono arrivati e sono stati presentati, quello che ha saputo coniugare al meglio proprio il concetto di rigenerazione urbana con il concetto di street art, e il progetto proprio esemplifica come sia possibile proprio nel concreto mettere in moto il cambiamento attraverso l'impegno di soggetti diversi che si incontrano proprio attorno alla volontà di ripartire dai giovani, considerandoli proprio come risorsa fondamentale. Progetti piccoli, apparentemente, che influenzano la vita di tutti coloro che abitano nel quartiere, come ci raccontano due ragazzi liceali. Sono Pietro Benciolini, ho 18 anni appena compiuti e sono un ragazzo che qua che abita tra Ortica e Lambrate, nel nuovo quartiere Rubattino. E perché hai deciso di partecipare a questo progetto? Sono stato invitato da un'amica, comunque gli Ortica Noodles è una realtà che conosco perché il migliore amico di mio fratello ci lavora. Cos'è che ti piace di questi progetti di espressione artistica? Ah, sicuramente dal punto di vista estetico sono un abbellimento del quartiere enorme. In più ritengo che abbiano un'importanza culturale abbastanza elevata. Innanzitutto questo qua di Via Corelli sul rap è comunque la musica che ascolto e quindi inevitabilmente mi sento vicino, ma in giro comunque per l'Ortica troviamo diversi murales che raccontano storie importanti, come quelli per esempio della resistenza, sulle donne, argomenti abbastanza importanti, soprattutto che possono anche interessare noi giovani e trovarci uno spunto di riflessione. Poi in un quartiere così abbastanza periferico di Milano, in cui non vediamo questi bei palazzi come possiamo vedere nei nuovi palazzoni del centro di Milano, comunque sono un abbellamento diverso da quello che appunto abbiamo in centro a Milano, ma forse ancora più bello, più rappresentativo e sicuramente anche più vivo, nel senso che lo fanno dei ragazzi che abitano qua. Ed è una cosa che accomuna tutti, no? Mi chiamo Lorenzo Aldegheri, ho 18 anni, ma il mio quartiere sebbene abbia molti edifici moderni e anche vari spunti artistici, è comunque un quartiere molto antico, storico, e perciò penso che altre realizzazioni che diano un po' di colore e vita all'ambiente possano far solo bene. Ogni tocco di colore in questo quartiere, ogni sfogo artistico, per me è un'ottima cosa. La puntata termina qui. Potete riascoltarci in podcast, scriverci all'indirizzo diario@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.